Buonasera a tutti, va in onda Zardins Magnetics, programma che ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Inizia alle ore 20 fino ovviamente alle 21:30. Ora andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione, ovvero Retribution dei Behind Enemy Lines. Ed eccoci qua dopo la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics e ogni giovedì siamo qui in diretta radiofonica dalle ore 20 alle 21:30 dagli studi radiofonici di Udine di Radio Onde Furlane. Quella che che abbiamo appena ascoltato era Retribution dei Behind Enemy Lines, ormai è nostra sigla da alcuni anni. E ora invece andiamo all'ascolto di questo 7 pollici, edito nell'88 da questa band nata proprio all'incirca sulla metà degli anni 80. Comunque loro sono gli Operation Ivy, e da questo loro EP 7 pollici ci ascoltiamo paio di brani, insomma uno, due, vedremo, e che questo 7 pollici si chiama Hectic EP ed è stato il loro primo 7 pollici. E Ed è una band, non ho detto, una band statunitense, esattamente ca dalla California. Colpi. Pensavamo di aver visto tutto e invece pensavamo che ci sarebbero bastati i tonfi al cuore nel guardare i bambini che giocano nei cortili delle scuole con indosso una mascherina. Pensavamo che la didattica a distanza, la cui performance educativa migliore è stata senz'altro quella di far rimpiangere la scuola in presenza, un po' come se si scoprisse che c'è di peggio che essere legati a una sedia, ti possono anche percuotere gli stinchi. Fosse un disciplinamento tecnologico per tutti. Invece, dal fondo senza fondo della decretazione di emergenza, è arrivato qualche giorno fa un altro colpo, un'infamia supplementare, una vessazione raffinata. A partire da un certo numero di casi di Covid in classe, 5 per le scuole elementari e 2 per le scuole medie, in DAD finiranno solo i bambini e i ragazzi non vaccinati. Positivi, asintomatici, negativi, non importa, a casa, così i loro genitori imparano a non fidarsi della scienza e a non obbedire al governo. Un pedagogista pedagogista, non diciamo libertario, ma ancora semplicemente umano, non avrebbe difficoltà a capire che non sono i bambini e gli adolescenti a scegliere, che a quell'età il conformismo, lo spirito mimetico e le pratiche di esclusione possono raggiungere una discreta ferocia e provocare dei danni emotivi considerevoli. Dov'è Mario? Fa lezione da casa? È ammalato? No, sta benissimo. Ieri abbiamo giocato a calcio insieme. Non è vaccinato perché la mamma è novax. Ecco, solo della gente letteralmente senza cuore può decidere un provvedimento del genere, talmente ignobile che persino la Lega, un partito che ha fatto della discriminazione la propria fortuna politica, si è astenuta dal votarlo. Parliamo di pura formalità, ovviamente, su cui la vicenda Mattarella ha giocato ben più di un'improbabile e improvvisa sensibilità verso i più piccoli. Ma è per dire che un simile colpo è di quelli che travolgono ogni minimo decoro. Per il centro-sinistra, invece, va tutto bene. Avanti di più. Ci piacerebbe pensare e sperare che gli insegnanti non si presteranno a una misura così insensata, odiosa, vessatoria per procura. Chissà, qualche pagina letta sulle sciagure che l'obbedienza ha provocato nella storia, un po' di affetto per i propri alunni o studenti, un sussulto d'animo e di coraggio. Così come sogniamo di bambini e adolescenti barricati in classe o saliti sul tetto della scuola per non farsi separare dallo Stato, dalla scienza, dagli esperti, dagli adulti. Ma oggi a dettarci queste parole sono la rabbia e quella vergogna che si prova nell'essere contemporanei di una tale disumanità burocratica e amministrativa, coperta e giustificata come sempre dal servilismo dei giornalisti, i quali non titolano «Non vaccinati in DAD», bensì «Niente DAD per i vaccinati». Comunicazione di guerra, come voleva il senatore, e in guerra si parla degli ostaggi liberati dai nostri, mica delle vittime collaterali. Per salire sulla giostra dell'infamia, tuttavia, persino i governanti italiani devono mettersi in fila e aspettare il proprio turno. Non esistono infatti solo i decreti, la ferocia e la repressione possono farsi ancora più svelte, per questo lo Stato ha inventato le circolari, come quella con cui un paio di mesi fa il ministro degli interni ha vietato ogni corteo in centro. Ebbene, qualche settimana fa il ministro della salute francese ha diffuso anch'esso una circolare. Per vaccinare i bambini e gli adolescenti basta il consenso informato di uno solo dei genitori e agli hub vaccinali può accompagnarli qualsiasi adulto con delega del genitore. Una meraviglia per genitori in disaccordo e magari anche separati, con i figli che spingono per poter tornare a vivere normalmente. È la famiglia che fa di un borghese, dicevano quei due, mentre i militanti di Giustizia e Libertà avevano sciolto l'acronimo PNF, Partito Nazionale Fascista, in per necessità familiare. Per difendere la famiglia, insomma, non si conti su di noi, ma c'è modo e modo di superarla. Ecco, lo stato dei tecnocrati trova insopportabile persino che dei genitori si intromettano in fatto di salute, alzando una piccola barriera fra la tecnoindustria e il corpo dei loro pargoli. Non potendo prenderglieli con la forza, non siamo ancora al platonismo cibernetico, con i figli allevati dagli ingegneri e dagli scienziati di Stato, colloca i propri presidi sanitari e i propri ricatti fin dentro le case, tanto a protestare saranno solo i reazionari, per i progressisti va bene anche questo. Quanti colpi dovremmo restituire per riprenderci da una tale gragnuola? Un saluto da parte mia, Zardins Magnetics. Allora, abbiamo iniziato con questa lettura sui misfatti che colpiscono alunni e studenti e praticamente tutta la trasmissione la dedicheremo a parlare di gestione totalitaria della pandemia. 5G, materialità rimossa del digitale, controllo totalitario, eccetera, eccetera. E ci tengo a dire una sola cosa, che perché mi sta sul groppone e mi tocca dirla, è veramente urtante che prima della sigla di Zardins Magnetics vada in onda lo spot del Ministero del Terrore Sanitario, pronunciato di volta in volta da uno dei vari servi del potere, e speriamo che si possa evitare questa cosa, perché veramente va contro di noi. Vabbè, ascoltiamo un po' di musica e poi continuiamo a parlare. tanto in sottofondo stiamo ascoltando un brano per questa band che sono i War Coma, credo una band inglese, perché ci sono poche notizie su questa band. Tra l'altro devo anche dire che questo è un album 12 pollici, ma è uno split, è uscito assieme ad altra band sempre inglese, i Jesus Broiser, ed è un album split datato 2010, e credo che le due band non esistano più, anche perché dopo questa uscita discografica, a parte alcune precedenti, non hanno mai fatto uscire altro. Insomma, sono passati 12 anni e comunque non si è mai sentito più parlare di questi War Coma che stiamo ascoltando in sottofondo, e tantomeno non si è mai sentito parlare dei Jesus Broiser. Allora, prima ho dimenticato di dire che il contributo che ho letto, 400 colpi, era tratto dal blog Il Rovescio. E adesso invece continuiamo con le riflessioni su appunto la gestione emergenziale militare della pandemia e la dittatura militare vaccinale, proponendo alcuni così spunti di riflessione da uno scritto articolato, lungo, insomma abbastanza anche complesso, e di uno scritto fatto a tre mani, diciamo, da Stefania Consigliere, Alessandro Pacco e Cristina Zavaroni. Il testo si intitola Reeducational Channel, il lockdown come dispositivo di rieducazione politica. Allora, questi tre ricercatori partono da questa constatazione: la gran parte dei nostri connazionali non trova niente da obiettare, neanche quando il governo manda uomini armati alle fermate degli autobus per controllare il Green Pass dei ragazzini. Qui, come altrove, i meno alienati abbassano gli occhi e tirano dritto, gli altri neppure vedono. Cosa ha reso possibile un simile cedimento politico, cognitivo, psichico ed emotivo? E ci dicono: è in questione un elemento che gli sprofondati nel fango colgono con maggiore chiarezza. Il livello di indifferenza, acquiescenza e unanimità della maggioranza ha qualcosa di anomalo, al punto da far immaginare che sia l'esito di un processo specifico. Spesso, nel disastro che chiamiamo storia, l'ingrediente segreto dei fenomeni è la violenza. Proponiamo di leggere l'ottundimento e la dissociazione che vediamo intorno a noi come effetto di un processo traumatico funzionale all'estensione, a parte delle popolazioni ricche, di quella stessa violenza strutturale che nella più scontata quotidianità regola i rapporti fra territori, classi sociali, gruppi etnici e soggetti. Ecco, e quindi vanno ad approfondire il discorso della violenza strutturale, ovvero di ciò che non si deve vedere. David Graeber ha scritto che la violenza strutturale è in azione in quelle zone della vita umana che di solito mettono gli antropologi a disagio, le zone di asprezza, semplificazione, smemoratezza e totale stupidità nelle nostre vite rese possibili dalla violenza. Con violenza qui non ci si riferisce al genere di atti sporadici e spettacolari a cui di solito pensiamo quando la parola viene pronunciata, ma alle forme noiose, monotone e tuttavia onnipresenti di violenza che definiscono le condizioni stesse della nostra esistenza. Alle minacce, velate o palesi, di forza fisica che stanno dietro a pressoché tutto, dall'applicazione delle regole su dove è permesso sedersi, stare, mangiare o bere nei parchi e in altri luoghi pubblici, fino alle minacce, all'intimidazione fisica e agli attacchi che sorreggono l'applicazione delle regole tacite di genere. Si propone di definirle zone di semplificazione violenta. La violenza strutturale è lo sfondo stesso dei nostri decorosi anni neoliberisti. Proprio per questo, forse, gode di uno strano regime percettivo. Ben visibile dal fondo della piramide sociale, si fa sempre più opaca a mano che si sale verso il vertice. Ne sanno qualcosa gli Afro-American negli USA, i migranti in Europa, i carcerati, gli homeless. E continuiamo con la lettura di queste riflessioni sul lockdown come dispositivo di rieducazione politica. In quanto bianchi e cittadini di una nazione ricca, nella seconda metà del Novecento siamo stati dal lato relativamente sicuro della barricata, con accesso a un certo grado di benessere materiale e di privilegio geopolitico, e con la possibilità di disvedere molta della violenza prodotta dal sistema. Già da un po', però, fra l'erosione degli istituti collettivi, la sanità, la scuola, i sindacati, l'associativismo, eccetera, e la fragilizzazione individuale, vedi ad esempio l'epidemia di depressione degli scorsi decenni, questa posizione di vantaggio è sotto attacco. Dopo la crisi finanziaria del 2008, un brusco processo di riproletarizzazione ha investito la popolazione occidentale generale. Dall'aumento dei morti sul lavoro, ai tagli alla sanità, dalla macelleria sociale targata UE all'aumento esponenziale del costo della vita, dalle patologie del vuoto ai suicidi in età giovanile, in questo quadro la pandemia è arrivata come un'occasione d'oro per instaurare con le maniere forti le condizioni di violenza strutturale oggi più utili al plusvalore. La gestione pandemica nella sua interezza può essere letta come un esempio da manuale di shock economy, o se si preferisce di accumulazione originaria. E il confinamento della primavera 2020 come dispositivo inaugurale di rieducazione politica alle nuove condizioni del capitalismo informatico. Violenza traumatica, ovvero il dispositivo lockdown. Fatte salve alcune aree dell'Italia del Nord, nella memoria collettiva la pandemia è iniziata davvero tra l'8 e il 10 marzo 2020, con la progressiva estensione della zona rossa all'intero territorio nazionale. L'atto inaugurale del presente in cui siamo intrappolati è dunque il cosiddetto lockdown, o alla francese confinamento, un insieme complesso e articolato di strategie che può essere letto come fatto sociale totale. Ecco, e arriviamo, continuando in questo scritto di Stefania Consigliere, Alessandro Pacco e Cristina Zavaroni, a tratteggiare una fenomenologia del lockdown. Tutti gli elementi, ci dicono gli autori, sono noti. Vale tuttavia la pena di ripercorrerli qua e là a cascata per comprendere la potenza distruttiva di quello che abbiamo vissuto e che stiamo anche vivendo. Isolamento fisico. È noto in psicoterapia che il supporto fisico, il conforto, l'abbraccio e la presenza degli altri è il principale elemento protettivo e riparativo rispetto ai traumi, intenzionali o meno che essi siano. Durante il lockdown, la mera presenza di altri è stata descritta come biohazard e il respiro, base stessa di tutte le discipline del corpo, presentato come l'elemento fra tutti più velenoso. Le regole del distanziamento sociale, apparentemente protettive, ci hanno indotti a restare, di nostra spontanea volontà, da soli, senza la protezione minima data dalla presenza di altri all'interno del luogo stesso in cui stava avvenendo l'effrazione. Ciò è stato peggiorato dalla confusione continuamente perseguita fra stare a casa e stare in casa e dall'evidente interesse di una parte del capitalismo alla scorporazione del lavoro, cioè alla sua disincarnazione. altro aspetto del lockdown, obiettivo occultato. Come per il carcere, che nella narrazione ufficiale educa in vista del reinserimento, il manicomio, che sempre nella narrazione ufficiale cura la follia, l'accoglienza, che integra i migranti nella società d'arrivo, e la casa famiglia, che sempre in questa narrazione dominante protegge il nucleo madre e bambini, anche nel lockdown l'obiettivo esplicito, condivisibile e ben intenzionato di protezione dal contagio, occulta il fatto che attraverso di esso viene prodotto tutt'altro. Allora, nel caso delle carceri, corpi criminali utili al funzionamento del sistema; nel caso del manicomio, isolamento della devianza dal corpo sociale; nel caso della casa famiglia, detenzione, nel caso dell'accoglienza, detenzione amministrativa di forza lavoro sottopagata; nel caso della casa famiglia, normalizzazione delle forme di genitorialità, assoggettamento della popolazione alle nuove dinamiche necessarie al plusvalore. Con l'eccezione del carcere, che ha il merito di una certa chiarezza, negli altri casi l'occultamento del secondo obiettivo è tanto più efficace in quanto la struttura fisica sembra assecondare lo scopo narrato. L'ambiente agreste da villa di campagna nasconde l'isolamento dei padiglioni manicomiali. Le comunità di accoglienza multiculturali, tipo alloggio condiviso, nascondono lo schiacciamento neocolonialista del migrante a ragazzo a cui trovare un primo lavoretto. Le decorazioni allegre e l'arredamento funzionale delle case famiglia nascondono una realtà di ispezione e osservazione quotidiana. Nel caso del lockdown, la prigione è la nostra stessa casa, che tuttavia, proprio per il suo carattere intimo, difficilmente può essere riconosciuta come gabbia. Altro elemento: confusione dei piani. A fronte di un doppio attacco simultaneo alla popolazione, a rischio sia per la diffusione di un virus poco noto che per l'instaurazione di un regime di autoritarismo statale, la narrativa ha continuamente confuso i piani, inducendo a credere che militarizzazione, controllo, disciplinamento e propaganda fossero mezzi indispensabili per il contenimento del virus. In questo modo il nuovo stato etico ha potuto rivestire le operazioni biopolitiche e necropolitiche che andava conducendo, con una vernice di bene comune e protezione dei fragili. Continuiamo con questa fenomenologia del lockdown. Militarizzazione del territorio. Figlia di una lunga manovra cominciata ben prima della pandemia, la presenza ubiqua di pattuglie di poliziotti, carabinieri, vigili e soldati a controllare, talvolta in maniera violenta, le autocertificazioni e la legittimità degli spostamenti ha preparato la cittadinanza a una militarizzazione del territorio, che presentandosi dapprima come necessità sanitaria, è rapidamente diventata una forma particolarmente odiosa di controllo sociale. Abbandono. Le strutture della sanità pubblica hanno dapprima abbandonato i malati e i loro parenti a se stessi, con la disattivazione dei presidi medici territoriali, medici di famiglia, ambulatori, consultori, eccetera. Poi hanno recluso i malati negli ospedali, rendendoli irraggiungibili dalle proprie care, proprio nel momento di maggior bisogno e gettando gli altri nella più angosciosa incertezza sulla sorte dei propri cari. Combinata con la chiusura per legge dei luoghi di promozione della salute, palestre, studi di terapeuti non biomedici, parchi, piscine, spiagge, eccetera, ciò ha creato le migliori condizioni possibili per un disastro sanitario. La situazione di abbandono è stata poi particolarmente grave per i gruppi marginali o marginalizzati che durante il lockdown si sono trovati in una sorta di invisibilità al quadrato. Né del corpo eroico e sano della nazione, strappata ogni autonomia ai singoli e alle collettività, l'unica speranza simbolica e materiale di uscire dalla crisi è affidata agli esperti e deve essere accompagnata con l'adesione a riti apotropaici di portata nazionale, l'inno alle finestre, la denuncia alla TV del vicino che va a correre, il teatro sociale della mascherina, la vaccinazione di massa. Veri e propri rituali di ricostituzione del mito della nazione e di conformazione dei singoli al corpo unitario dello Stato. Chi non aderisce alla narrazione e all'etica patriottica è automaticamente un traditore che merita il pubblico disprezzo e la condanna a una segregazione selettiva più vincolante, come accade oggi nei confronti dei non vaccinati. Politico dell'assurdo. Lo stupore e l'incredulità, ma non può essere, che molti hanno provato è quella di chi, di fronte a una realtà a cui letteralmente non si può credere, vive una scissione quasi schizofrenica fra la parte di sé che ne fa l'esperienza e quella che la osserva. Da quasi 2 anni le nostre scelte avvengono in un panorama di condizioni paradossali. Quando le regole non sono stabili e le azioni sono insensate dal punto di vista logico o etico, chi deve agirle è costretto a sopprimere il principio di non contraddizione. Si installa un congegno simile ad un bypass del pensiero critico che, svincolate le azioni dal loro senso, cerca di ancorare i comportamenti a qualcos'altro. Ad esempio al teatro sociale del bravo cittadino, al bisogno di fare come gli altri, alla speranza di uscire dall'incubo ubbidendo o di trovare un nemico su cui scaricare le colpe. Saltata la consueta logica del mondo e in assenza di tenuta critica, questo ancoraggio d'emergenza si fa sempre più cruciale e indiscutibile, anche perché non resta altro. Nel frattempo le azioni si rinforzano anche per mero automatismo. Dimentichiamo di togliere la mascherina, esitiamo ad abbracciare gli amici, ci sentiamo in colpa se tossiamo in pubblico, esibiamo il Green Pass. Dismisura. Gli spazi del terrore hanno come tratto fondamentale la dismisura, un'imprevedibile sproporzione fra cause ed effetti, un atroce oltranzismo delle regole a scapito del senso comune. Una delle caratteristiche più perturbanti dei regimi totalitari è quella di vietare cose che non è possibile vietare. Come in carcere, la logica dell'impianto normativo è rovesciata, non più è tutto permesso salvo ciò che è espressamente vietato, ma è tutto vietato salvo ciò che è espressamente permesso. Da qui tra l'altro il carattere sempre ipertrofico degli impianti normativi in regime totalitario. Come in certi racconti dell'assurdo o in certi sogni sotto tirannia, Le banalità di base della vita umana possono diventare attentati. Così nel lockdown era vietato vedere i propri cari, stare con gli amici, prendersi cura del prossimo, innamorarsi, andare a sentire un concerto, fare due passi. A tutt'oggi continua a essere difficilissimo assistere i malati e nel frattempo è stato vietato ad alcuni di andare a vedere la recita scolastica dei propri figli o di prendere i mezzi. La dismisura coincide con l'organizzazione ferrea della disumanità. Della vittima. I dispositivi incrementali o paludi cooptano le proprie vittime per perpetrarsi. La narrativa bellico-sanitaria, che prevede volta a volta un solo comportamento protettivo legittimo, troverà in chi adotta tale comportamento uno zelante sostenitore. Nello sforzo di restaurare la normalità perduta e di vedere rinforzata la propria scelta, costui tenterà di convincere altri ad aderire a quella che viene narrata come la via di salute. Il rieducato diventa rieducatore e lavora in maniera manipolativa all'interno delle relazioni. Controllo e autocontrollo diventano i cardini delle relazioni fra soggetti. Mediazione tecnica delle relazioni. Se l'isolamento dei soggetti si inserisce nella moderna propensione a costruire individui monade, autonomi, competitivi e interessati al proprio vantaggio, il dispositivo lockdown ha permesso un balzo avanti, educando la popolazione al dominio reale sulle soggettività. Quando ogni relazione deve passare per la mediazione di una macchina, anche le zone di penombra, i commons affettivi, fatti di corpi, timbri, inflessioni, odori, movimenti, accenni, diventano terreno di estrazione di plusvalore. Lungo le prime fasi di questo addestramento abbiamo scoperto all'improvviso che l'intero processo era possibile solo perché gran parte delle infrastrutture erano già pronte. Con il suo proseguire nelle nostre menti si è impresso che vita e socialità non solo non vanno più insieme, ma anzi possono essere antagoniste. Gli effetti a breve e lungo termine sono stati e sono sotto i nostri occhi. Persone chiuse in casa da anni, che escono solo con due o tre mascherine sul naso, morti solitarie e la guerra civile nelle famiglie, nei gruppi, fra amici. L'enorme scia di lutti relazionali di cui tutti stiamo facendo esperienza. Nel frattempo la violenza strutturale ha allargato la sua presa, l'abitudine offusca l'indecenza del panopticon, delle altrui vite imposto dalla DAD, la piccola e media impresa è sostanzialmente morta. Di potenziare medicina territoriale, edilizia scolastica e mezzi pubblici, di mandare la gente in pensione anticipata, di allargare i presidi di salute, di migliorare le catene produttive del cibo non si parla nemmeno più. Il problema, come noto, sono i Novax, i lavoratori in sciopero, i ragazzini senza Green Pass sugli autobus. Il problema è qualunque forma di prossimo che non sia uno zelante sostenitore dell'unica verità vera e dell'unico comportamento giusto. Il risultato fattuale imparenta il dispositivo lockdown ai campi di rieducazione politica, intesi in senso ampio come luoghi di decostruzione della forma umana di chi vi accede, al fine di plasmarne una differente, adatta al mutato contesto sociopolitico-antropologico, ai nuovi valori e ai nuovi comportamenti che esso richiede. Esso ha insegnato, con la brutale evidenza dei fatti, che si può campare, lavorare e consumare anche come monadi assolute e perfino nella sparizione materiale degli altri. E per farlo in tempi così rapidi e con tanta efficienza ha dovuto agire tutta la violenza necessaria. E coloro che hanno scritto questo contributo su il lockdown come dispositivo di rieducazione politica, cioè Stefania Consigliere, Alessandro Pacco e Cristina Zavaroni, concludono questo loro lungo scritto dicendo: bisogna cominciare subito a inventare soluzioni non violente, non autoritarie, non fasciste. Si tratta cioè di sottrarsi fin d'ora, nel nostro intimo, oltre che nelle nostre pratiche, a un sistema che ha mostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, di fare davvero schifo. Stiamo tra l'altro ascoltando, tra i vari interventi, insomma nei piccoli momenti di pausa, stiamo ascoltando questa band di tedesca, esattamente di Amburgo. Loro sono gli Excellent e questo è il loro album, loro ultimo album uscito nel 2020, che si chiama Beyond Remedy. Loro sono gli Excellent. Come detto prima, siamo all'ascolto di questa band tedesca di Amburgo, gli Excellent, e rimaniamo all'ascolto di questo ultimo brano per questa band, da questo loro disco che appunto, come ho detto, datato 2020. Mm-hmm. Ritorniamo alle parole, così presentando la giornata di sciopero nazionale, la giornata del 15 febbraio prossimo, che è una giornata di sciopero nazionale intercategoriale, indetta da varie sigle. Comunque ci interessa nello specifico l'indizione da parte del sindacato operai in lotta COBAS, quindi Sol COBAS. Poi in alcune zone dell'Italia, in alcune regioni, ci sono anche altri sindacati, diciamo di base, che promuovono questo sciopero nazionale intercategoriale, uno sciopero che per tutte nei settori pubblici e privati, quindi per tutta la giornata del 15 febbraio, dalle ore 0 alle ore 24, è una giornata di mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori, che si pone in aperto contrasto con le politiche economiche antioperaie e antipopolari in atto, e anche contro, è uno sciopero nettamente contro l'obbligo di Green Pass, che colpisce in particolare il mondo del lavoro. Ricordiamo che il 15 di febbraio è la giornata a partire dalla quale le persone che hanno dai 50 anni in su sono obbligate sarebbero obbligate a vaccinarsi. E per così approfondire un momento questo discorso dello sciopero del 15 febbraio, vi leggo qua e là da un volantino proposto dall'Assemblea Militante, che dice, che titola: reagiamo con la lotta 15 febbraio, reagiamo con la lotta sui posti di lavoro e fuori. Ci dicono i compagni dell'Assemblea Militante: con l'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per le persone che hanno 50 anni e più dal 15 febbraio, le lavoratrici e i lavoratori che non accetteranno di piegarsi alla vaccinazione rischieranno la sospensione dal lavoro senza salario, come è già avvenuto per le lavoratrici e i lavoratori della sanità e della scuola e di altre categorie. Appare evidente il carattere non sanitario di questo provvedimento, che rappresenta un vero e proprio ricatto. La divisione costruita ad hoc tra vaccinati e non vaccinati serve solo ad indebolire o azzerare l'autodifesa di classe contro i capitalisti e lo Stato che li rappresenta. Già si vede quello che succederà alle condizioni di vita e di lavoro degli sfruttati e delle sfruttate. Miliardi ai grandi capitali finanziari e industriali in nome della ricostruzione dell'economia, che saranno utilizzati per accelerare processi di ristrutturazione con enormi esuberi e aumenti nello sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici. Sblocco dei licenziamenti con migliaia di espulsioni e ulteriore diffusione del lavoro precario. Aumento delle bollette e dei prezzi dei beni di prima necessità con salari inchiodati o al ribasso. Smantellamento ulteriore della medicina territoriale e ulteriore mortificazione della scuola, ridotta ad abituare i giovani a farsi sfruttare e uccidere nell'alternanza scuola-lavoro. Sempre più dura repressione e confinamento a chi si ribella e resiste. E continuano i compagni dell'Assemblea Militante: bloccando fabbriche, luoghi di produzione e circolazione delle merci, si può dare un colpo decisivo alla gestione autoritaria della pandemia. Prendiamo l'esempio dall'azione, ad esempio, dei camionisti canadesi. Creiamo legami, diamo vita a forme di resistenza collegate fra loro, costruiamo una mobilitazione per il 15 febbraio che sappia estendersi e radicarsi a livello territoriale. E poi, insomma, ricordano le rivendicazioni di questo sciopero: fine dello stato di emergenza di fatto e di diritto, abolizione del Green Pass normale e super, no all'obbligo vaccinale per nessuno. È importante, insomma, questo momento di sciopero di lotta dei lavoratori e delle lavoratrici è importante proprio per rilanciare un po' qualcosa anche di concreto, diciamo, e poi perché dà voce, e si spera anche corpo, proprio a tutti quelli che non aderiscono alla narrazione e all'etica patriottica di cui parlavano prima nell'articolo che vi ho letto prima, appunto sul lockdown come dispositivo di rieducazione politica, dà voce e speriamo corpo a quelli che, a tutti noi che siamo considerati traditori della patria. In questo momento c'è stato un cambio da un pezzo all'altro, senza pausa comunque, e approfitto anche per dire che forse prima c'è stato un momento di vuoto, proprio vuoto audio e anche musicale. Comunque avevo presentato un brano che erano questa band modenese e anche zona di Reggio Emilia degli anni 80, gli Stigmate, mentre ora stiamo ascoltando questa band londinese da questo loro primo album datato 2010 che si chiama Past the Point of No Return. Loro sono gli Agnosi. Quando sono circa le 9:10 di sera, siamo sempre su Zardins Magnetic, sempre in diretta, e veniamo a presentare un'iniziativa che si svolgerà domani sera allo spazio autogestito di Via De Rubesco a Udine, e cioè la presentazione e discussione di un opuscolo che si chiama Il mondo a distanza, su pandemia, 5G, materialità rimossa del digitale e l'orizzonte di un controllo totalitario. E allora, l'opuscolo è abbastanza, insomma, articolato e parla di molte cose. E magari venite alla presentazione così alle 8 di sera sarà, così potete partecipare direttamente, fisicamente al tutto. Intanto, tra le varie argomentazioni, insomma, tra le varie cose di cui si occupa, vi leggo magari un attimo la premessa per capire un po' le intenzioni degli autori, e poi pensavo di leggere qualcosa su che riguarda proprio il lavoro, relativamente a questa digitalizzazione sfrenata della vita. Allora, ci dicono gli autori dell'opuscolo, è appunto prodotto da Berg Teufel, che è un blog altoatesino. Ci occuperemo qui, ci dicono gli autori, soprattutto di un gruppo di tecnologie dell'informazione fra loro interdipendenti, a partire dalla rete 5G, l'infrastruttura che permetterà il funzionamento di tutte le altre. Sarebbe però altrettanto importante approfondire il tema, ad esempio, dei lati oscuri di altre tecnologie vendute come green e dell'impossibilità di un capitalismo sostenibile, così come quello della vera e propria religione tecnologica e scientista imperante, e così come la critica radicale della tecnologia in generale, che lungi dal rappresentare un neutro progresso delle conoscenze umane alla conquista di strumenti utilizzabili in un senso o in un altro, a seconda dell'organizzazione politica, andrebbe letta la tecnologia in generale come corpo fisico dell'ordine sociale, inseparabile da un apparato che inevitabilmente richiede divisione del lavoro, anche nel senso di divisione internazionale neocoloniale del lavoro, e un'organizzazione sociale complessa e gerarchizzata, e che tende, come insegna la storia del Novecento, a distanziare progressivamente gli uomini e le donne dal senso delle proprie azioni e ad espropriarli delle loro capacità umane per renderli sempre più dipendenti dall'apparato stesso. E insomma, in questo opuscolo un po' così si parla, diciamo, si discute di a che cosa servono i dati raccolti con smartphone e vari dispositivi di questo genere, e anche attraverso il Green Pass, e chi guadagna, chi ci guadagna da tutta questa raccolta di dati, e qual è la realtà che ci stanno apparecchiando e imponendo. E veniamo al discorso che vi dicevo del lavoro. Aspettate che cerco. Allora, ops, chiaramente un sottofondo no, adesso che c'è casino di fogli che vabbè, metti un sottofondo. Ecco, scusate l'eccesso di frusci di prima, ho trovato il paragrafo dell'opuscolo, appunto, Il mondo a distanza. Liberi dal lavoro, si intitola, molti dei lavori più diffusi sono destinati in breve tempo a poter essere svolti dalle macchine in totale autonomia o inizialmente con l'aiuto di pochi supervisori umani. Si pensi agli autotrasportatori, come, citano dei libri. La tendenza principale della comunicazione mediatica è dominata dalle autovetture driverless, come quelle che stanno sviluppando Uber e Google, ma il regime di performance spartano e pensato per l'autostrada del trasporto su gomma a lunga distanza è molto più adatto all'automazione di quanto non sia la guida dell'automobile nel traffico in un ambiente urbano e suburbano. L'apprendimento automatico delle macchine e il controllo tecnologico arrivano però progressivamente a minacciare anche professioni che si sarebbero credute al riparo. Il supercomputer di IBM Watson promette diagnosi e decisioni sulle terapie da seguire, assai più affidabili di quelle dei medici umani, grazie al fatto che l'intelligenza artificiale può leggere in pochi secondi tutta la letteratura scientifica esistente e considerare in tempo reale tutti i dati a disposizione su una patologia. Ovviamente è ancora più efficace dei medici in carne ed ossa anche nell'evitare di considerare nocività e cause sociali delle patologie, riducendo definitivamente la salute a una questione di parametri numerici. I progressi dell'intelligenza artificiale ci fanno intravedere il tempo in cui quasi ogni tipo di capacità umana potrà essere scavata per trarne le regole implicite e ridefinita come un esercizio di riconoscimento e riproduzione di modelli, anche di quelli apparentemente più dipendenti dal sentimento e dall'improvvisazione. Intanto, in attesa che le macchine sostituiscano anche loro, i collaboratori di alcuni studi legali si vedono calcolare la propria produttività attraverso software gestionali che tengono traccia del tempo impiegato per ogni loro attività quotidiana, dalla redazione di una lettera a una telefonata o un confronto con un collega. Più che la liberazione dal lavoro vagheggiata da alcuni, la prospettiva sembra essere, almeno nel medio periodo, quella della sua polarizzazione, la scomparsa di molti lavori intermedi e l'allargamento della forbice fra quello che Shoshana Zuboff chiama stretto clero di specialisti informatici e chi sarà costretto a lavorare sotto l'algoritmo per il capitalismo delle piattaforme o a morire estraendo i metalli rari necessari alla produzione del tecnomondo. L'aspetto che tende a rimanere più in ombra, ma che ci sembra altrettanto importante, è proprio il significato che assume il progresso tecnologico per coloro che almeno per il momento il lavoro lo conserveranno o ne troveranno uno nella cosiddetta gig economy, l'economia dei lavoretti, per conto delle piattaforme come Deliveroo, Glovo o Uber. A questa ridotta forza lavoro verrà chiesto di fare di più, a un ritmo più sostenuto e per un salario più basso. L'esempio classico sono i centri logistici di Amazon, il cui giro d'affari si è ulteriormente impennato proprio grazie alla pandemia. E infatti in Italia ne stanno sorgendo di nuovi, perché i prodotti possano essere consegnati agli acquirenti nei tempi sempre più ridotti che vengono loro promessi. I lavoratori rimasti a convivere con i robot devono competere per il rinnovo del contratto sulla base di obiettivi di giornata sempre più insostenibili, mentre qualsiasi errore o interruzione, ad esempio per andare in bagno, è sempre tracciabile e contribuisce ad abbassare il proprio rate. Altro settore per il quale la pandemia ha rappresentato un affare d'oro è quello delle piattaforme di delivery, per le quali lavorano i rider Deliveroo, Glovo, Just Eat, eccetera. Il fenomeno è noto, presentato come lavoretto, grazie al quale gli studenti avrebbero potuto arrotondare facendo in più attività fisica all'aria aperta, aiuto. Si tratta in realtà dell'unica fonte di sostentamento di lavoratori, in molti casi immigrati, che non godono di nessuna di quelle minime garanzie delle quali ancora beneficiano i lavoratori dipendenti classici e soprattutto che lavorano a cottimo, monitorati e comandati attraverso lo smartphone da un algoritmo, i criteri di funzionamento del quale possono solo immaginare, che decide in base alle loro performance, alle recensioni veritiere o meno dei clienti o magari al fatto che qualcuno osi rivendicare migliori condizioni, se, quando e quanto farli lavorare. Appunto, questo era uno stralcio, diciamo, da un paragrafo dell'opuscolo Il mondo a distanza su pandemia, 5G, materialità rimossa del digitale e l'orizzonte di un controllo totalitario. Opuscolo che verrà presentato e del quale si discuterà insieme agli autori domani sera, quindi è venerdì 11 febbraio dalle ore 20 nello spazio autogestito di Via De Rubeis qui a Udine. Bene, quelli che abbiamo ascoltato adesso e che comunque ascolteremo un secondo brano sono gli Inzirli, band friulana, insomma dell'area di Udine, che è esistita tra il 90 e il 96, e quello che adesso noi abbiamo ascoltato i brani sono estratti dal loro 7 pollici datato 1995, che si chiama Amor o Vencul. E adesso andiamo all'ascolto dell'altro brano. Thank you. Ecco, e comunque, altra cosa, adesso siamo proprio giunti al termine di questa trasmissione che ricordo ancora, Hazard is Magnetic, se va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine, dalle ore 20 alle 21:30 e stiamo trasmettendo sui 90 MHz. Comunque, come sempre vi do dei contatti utili per, insomma, per scriverci qualsiasi cosa che voi vi sentite di fare. E allora vi do questo indirizzo di posta elettronica che è liberetutti@autistiche.org. Ripeto, liberetutti@autistiche.org. Inoltre, se volete scriverci sotto forma cartacea, potete farlo all'Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro 34121. Ripeto, l'intestazione ovviamente è Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro, codice di avviamento postale 34121. Ovviamente Trieste. Inoltre, se volete riascoltare questa trasmissione o comunque anche quelle avvenute in precedenza a questo giovedì, potete andare nel blog che si chiama zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, questo è tutto. Vi ricordo l'appuntamento è ovviamente per il prossimo giovedì, sempre in diretta radiofonica qui dal studio di Radio Onde Furlane, e vi lascio con un altro e ultimo pezzo di questa band friulana dell'area di Udine che è stata così, diciamo, testimone del punk hardcore friulano tra il 90 e il 96, e questo è il loro 7 pollici datato 1995. Bene, loro sono gli Inzirri, forse l'avevo già detto. Comunque, bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì.